Sale, sale dentro la mia guardia, vivere, vivere, non so come verrà. Quanto costa fare finta di essere una star. Sei già dentro la